Diretta dall'Arcivescovado di Milano, la prima radiotrasmissione confessionale, Padre Milan e Chierico Manera. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Beh, non male, non male l'ascoltatrice. Padre Milan, da Padre Milan, visto che abbiamo appena sentito che è riaperto anche il Duomo con la prima messa alle 7, da Padre Milan una benedizione a tutti voi, cari ascoltatori. Per Chierico Vestagliona Manera, quando toglierà la vestaglia e arriverà, potrà anche lui mandarvi una sua benedizione particolare, anche se Padre Milan conta un po' di più. Grazie cara ascoltatrice, con te iniziamo questa nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo con voi fino alle 11, tenendovi compagnia con tanti temi e tante cose da affrontare. Parleremo di che cosa? Di scuola, sì, parleremo di scuola. E poi parleremo del vaccino, di questa gara che c'è verso il vaccino, parleremo di turismo, di quest'estate avremo il responsabile di Airbnb per cercare di capire che cosa succederà, parleremo dei barbieri, parrucchieri, come li chiamate, che riaprono da oggi, cercheremo di capire come, se ci sono clienti, se qualcuno va a tagliarsi la barba o a tagliarsi i capelli o a farsi la tinta, insomma con Carmelo Lauricella, signori, in regia! Ecco, basta, spero Carmelo da domani che torni l'Alpino. Danilo Di Trani in regia, anche lui un po' affranto perché Ibrahimovic lascerà, credo, il Milan e quindi anche lui oggi si è svegliato un po' così sfatto da questa notizia, e la nostra redazione Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Vai Carmelo, vai! Enthusiasm about the future. Devo dire che questa mattina, quando sono sceso di casa e ho notato i tavolini dei bar sul marciapiede sotto un bel sole, ho avuto proprio questa sensazione di un po' di rinascita. Ora, quei tavolini erano vuoti, ecco, questo per la precisione va detto. Però c'è la sensazione che possano essere presto riempiti, o meglio, riempiti non è il termine giusto da utilizzare perché si riparte ma con un senso di responsabilità. Ecco, mi piace questa idea, l'idea che adesso ai cittadini spetta fare quel grande passo di responsabilità cui siamo tutti chiamati, perché non si può stare chiusi in eterno. Bisogna un po' riaprire con giudizio, con le regole, con il rispetto del distanziamento sociale, però ecco, questa idea di vedere i tavolini all'aperto mi ha proprio regalato un raggio di sole al cuore, questa immagine. Io appena potrò, ben distante dal tavolino a fianco, tanto ci sono le regole, adesso abbiamo stabilito quant'è, un metro e mezzo. Ieri sono andato a prendere anche una pizza sempre dalla mia pizzeria al Gargano, li voglio salutare. Cosimo il pizzaiolo non ha ancora messo le separazioni in legno che ha detto poi brucerò, però visto che hanno distanziato bene tutti i tavolini, prima o poi andrò anche da loro con i miei due figli. Vabbè, insomma, l'idea che si riparta lentamente. Oh, riparte quasi tutto tranne la scuola. Ah, ne parleremo poi alle 10:05. Soprattutto torneremo sul tema con un ospite. Torna con noi l'ospite che ci parlerà delle scuole paritarie, perché incredibilmente ho scoperto che si profila, udite udite, uno sciopero dei docenti delle scuole paritarie domani e dopodomani. Cioè pare che nelle scuole paritarie non ci sarà anche la didattica a distanza. È abbastanza clamoroso uno sciopero degli insegnanti delle scuole paritarie, no? Però ne parleremo più avanti, ma voglio segnalarvi già ciò che Massimo Cacciari ha scritto oggi sulla stampa riguardo alla scuola, perché vedere in effetti che riparte tutto tranne la scuola mi dà la sensazione veramente che io non lo so, non lo so perché. Ecco, non sapevo come dirlo meglio, grazie Carmelo, perché c'è i bambini, i ragazzini, le ragazzine, i giovani, i giovanotti non i cantanti, che cosa, cosa fanno? Cioè, c'è questa sensazione oggi, Massimo Cacciari racconta, commentando l'appello di 16 firmatari, docenti universitari per lo più, che dicono: non pensiate di sostituire la scuola fisica con la scuola a distanza. Pare che un studente su due non gradisca questa scelta della scuola a distanza. Magari all'inizio hanno gioito, ma adesso non tanto. Ebbene, scrive Massimo Cacciari, per quanto ancora frammentari e non univoci, i messaggi che ci raggiungono in questa fase 2 a proposito della scuola sono ben più che allarmanti. La prospettiva che emerge è quella di una definitiva, irreversibile liquidazione della scuola nella sua configurazione tradizionale, sostituita da un'ulteriore generalizzazione e da un'ancora più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento. Eppure, scrive Cacciari oggi sulla Stampa, batterebbe mettere il naso oltre Alpe per avvedersi che quasi tutti i paesi europei, in prima fila i nostri competitor sul piano economico, hanno già riaperto o stanno riaprendo le scuole, pur permanendo condizioni sanitarie analoghe a quella italiana. Francia, Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, in parte perfino il Regno Unito, sono ripartiti, sia pure con prudenza e gradualità, mentre anche la Spagna, ormai più tormentata di noi dal flagello del virus, sta valutando di svolgere almeno qualche settimana di scuola prima della pausa estiva. E ancora, scrive Cacciari, dare superficialmente per assodata l'intercambiabilità tra le due modalità di insegnamento in presenza o remoto vuol dire non avere colto il fondamento culturale e civile della scuola, dimostrandosi immemori di una tradizione che dura da più di 2 millenni e mezzo e non può essere allegramente rimpiazzata dai monitor dei computer o dalla distribuzione di tablet. È così, la scuola rimane chiusa. Non lo dico, lo dico anche da genitore un po' abbattuto di due figli che a scuola non vanno e quindi deve gestire questa situazione, ma guardate che anche i ragazzi sono un po' abbattuti dopo un po', dopo un inizio scoppiettante a dire che è bello la scuola da casa. La scuola è fatta per stare coi compagni, e non mi si dica ma non si può, c'è questa idea italiana, ma non si può. Ma non è vero, cioè si può riaprire, si possono riaprire i teatri, si sono riaperte le chiese, si aprono i bar, si aprono i ristoranti con le regole. Trovate un modo per riaprire anche le scuole, ma ormai quest'anno è andato. Io però, prima di salutare il mio ospite, voglio tornare un attimo a giovedì scorso, quando abbiamo avuto ospite Giuseppe Remuzzi, luminare, Istituto Mario Negri di Bergamo. Professor Remuzzi ha detto una cosa che io poi ho riportato su Facebook. Sono stato massacrato, perché in Italia non ci può essere un dibattito un po' articolato, bisogna ragionare o bianco o nero, e permettetemi la battuta, a me il bianco nero messo vicino non mi è mai garbato. Chiudiamo questa parentesi calcistica. Non è tutto o bianco o nero. Non è che se il professor Remuzzi dice i dati clinici dicono che ultimamente la malattia non è più così grave, vuol dire liberi tutti. Non ha mai detto questo. Vogliamo risentire cosa ha detto il professor Remuzzi giovedì? Vai, Carmelo. Le persone dicono non devi dire questa cosa perché sennò la gente abbassa la guardia. Io però dico la verità, io devo dire che non so se è cambiato il virus o se siamo cambiati noi. Dico che la malattia non è grave e dico che i malati, onestamente, lo posso dire sottovoce, ma non ci sono più. Io faccio il dottore e se dico che non vedo i malati, non vedo i malati. Una volta c'erano 80 pazienti che arrivavano al pronto soccorso con difficoltà respiratorie. Ieri abbiamo avuto 0, il giorno prima abbiamo avuto 0, il giorno prima abbiamo avuto 0. Il professor Clementi, che è un virologo, dice avevamo 100 malati, adesso ne abbiamo 0. Insomma, questi sono i dati clinici. Figurarsi, massacrato. Leggo oggi da 3 giornali diversi. Libero, il professor Zangrillo: stiamo producendo una serie di ricerche cliniche e prevedono l'arruolamento di pazienti in forma grave, ma questi pazienti fortunatamente non li troviamo più a San Raffaele almeno da un mese. Leggo su La Verità, Andrea Crisanti, colui che in Veneto ha messo in piedi tutto questo tornando da Londra, ed è stato salutato da tutti come uno che ha detto, che ha fatto delle cose positive. Professor Crisanti, nelle città il virus circola, non circola più, circola poco. Salto sul Corriere della Sera, dove c'è un terzo commento allo storico della medicina Cosmacini, e dice: i dati clinici che vedono, cioè i medici che vedono i malati, ci raccontano che l'aggressività del virus appare ridotta e l'organismo umano reagisce meglio. Ora, questo vuol dire tutti liberi? No, no e poi no. Vuol dire che tre medici, storici della medicina, professori, notano quello che il professor Remuzzi ci ha detto da Medico Giovedì. Ma io voglio parlare del tema vaccino. Allora, ci sono tante notizie interessanti su questo tema. Voglio introdurre l'ospite con quello che ha scritto oggi Luigi Manconi su Repubblica. A chi appartiene il vaccino contro il Covid-19, se e quando verrà scoperto? Chiede Manconi. È una grande questione. La grande questione etica è questa. Se le risorse della natura e quelle create dalle bioscienze e dalle biotecnologie sono indispensabili per il nostro futuro, è possibile sottoporle alla proprietà privata di singoli, gruppi o nazioni e alle regole di mercato inevitabilmente arbitrarie? O all'opposto, si deve stabilire che quelle risorse costituiscono un patrimonio dell'umanità? La domanda la giro al professor Gilberto Corbellini, docente di storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma, di cui ieri ho letto un interessante articolo sul Domenicale, proprio sul tema della malaria. Buongiorno professor Corbellini, eccoci. Buongiorno. Forse una risposta netta non c'è, o forse c'è, ce la dica lei, cioè appartiene a chi il vaccino? All'intera umanità o a chi lo produce, quindi regole di mercato? Appartiene a chi investe i soldi e poi riesce a organizzare una ricerca e una sperimentazione che producono un vaccino sicuro ed efficace. Mettere avviare una discussione adesso, ancora prima di avere il vaccino, e anche in una condizione in cui non sappiamo neppure se il vaccino arriverà e quali caratteristiche avrà, mi sembra un po' sollevare dei polveroni che alla fine non è che aiutano all'avanzamento e l'avanzamento. Sì, cioè, perché guardi che su The Guardian, per esempio, hanno pubblicato questo appello intitolato Un vaccino popolare contro il Covid-19, firmato ovviamente da molti primi ministri, presidenti. Forse lei dice da quegli stati che non investono troppo e quindi rischiano di rimanere un po' indietro in questo accaparramento. Guardi, io penso, forse questo è sempre un mio punto di vista, ma insomma, potrei argomentarlo anche con qualche dato empirico che viene dalla storia e anche dai fatti. Allora, il ruolo storicamente migliore che ha avuto la politica, che hanno avuto i media, che hanno avuto gli intellettuali nella ricerca sullo sviluppo di vaccini che fossero sicuri, efficaci e accessibili a tutti, è stato quello di garantire che nella ricerca vi fosse trasparenza. Quindi il problema è chi fa cosa, chi si mette d'accordo, attraverso quali contratti. Ora, è una cosa banale, ma le faccio un esempio. Insomma, noi avremo bisogno di almeno in prima battuta 6-7 miliardi di dosi di vaccino. 6-7 sì. miliardi di dosi di vaccino richiedono degli impianti di fabbricazione che soltanto 3 o 4 grandi imprese farmaceutiche multinazionali hanno. Quindi bisognerà comunque fare un accordo con chi negli anni si è attrezzato per fabbricare i vaccini. È chiaro che poi la ricerca di base si farà sia nell'industria privata che in quella pubblica, eccetera, ma non conosco nessun centro di ricerca o istituto di ricerca pubblico che abbia un impianto per fabbricare 5, 6, 7 miliardi di dosi di vaccino e distribuire in tutto il mondo. Quindi bisogna fare degli accordi. E infatti oggi, per esempio, Repubblica cita questa notizia che vorrei lei ci aiutasse a capire. Perché si è parlato tanto di quando Trump ha detto i primi vaccini saranno per noi, il CEO, l'amministratore delegato della Sanofi ha detto li daremo prima all'America che investono noi, Macron si è arrabbiato, eccetera. Però questa notizia che è passata un po' in sordina, Londra prenota 30 milioni di dosi, cioè Londra ha fatto un accordo, avrebbe stretto un accordo con l'AstraZeneca, e l'Università di Oxford per dire le prime 30 milioni di dosi delle 100 milioni, 30 su 100 che verranno prodotte, saranno per il Regno Unito. Sono accordi normali, commerciali, che secondo lei vanno bene? Sì, sono accordi normali, sono accordi che in sistemi di libero mercato si fanno, anche considerando le caratteristiche del prodotto che si va facendo, e sono in qualche maniera, c'è questa idea un po' curiosa di come funziona il mercato, insomma, come se il mercato servisse soltanto per arricchire qualcuno. Il mercato serve anche per, ci consente il termine, fluidificare una serie di processi di ricerca, innovazione e commercializzazione che alla fine possono far arrivare prima questi vaccini anche alle popolazioni, ai paesi che non hanno grandi risorse, proprio perché i paesi che hanno risorse immediatamente investono e acquistano un anticipo delle dosi di vaccino. Cioè, mi sembra una cosa, stare lì ad aspettare e non avere nessuno che investa o che è disposto a scommettere su qualche tipo, su qualcuno dei 200 vaccini che in questo momento vengono sperimentati, vorrebbe dire che noi ritarderemmo di quelli che sono i normali 8, 9, 10 anni l'arrivo di un vaccino, perché quando non c'è emergenza il vaccino ci mette 8, 9, 10 anni e costa una decina di e costa un paio di miliardi di dollari per fabbricarlo. In questo momento si stanno facendo grossi investimenti, si stanno sviluppando anche metodologie molto avanzate, alcune che hanno dei profili etici problematici, come i volontari che potrebbero essere fatti ammalare, cui si vorrebbe somministrare il virus per arrivare prima, per far avanzare prima la fase 3. Insomma, sono dei processi abbastanza complicati, dove la politica e, appunto, secondo me, i media e la comunicazione devono stare attenti a che non si pari, si cerchi di arrivare prima per portare a casa un risultato che poi però non sarebbe un risultato ma un danno per tutti. Sì, io vi sottolineo, cari ascoltatori, anche l'inchiesta che c'è a firma Maria Maggiore sul Fatto Quotidiano. Sono due pagine nella quale in questa inchiesta si parla appunto del vaccino. Secondo l'ultimo bollettino OMS dell'11 maggio sono 110 le società che stanno cercando il vaccino nel mondo e solo 8 sono passate la fase di test clinici sull'uomo. Di queste, 4 sono in Cina, ecco, no? Giusto per dire, sempre la Cina, no? 2 negli Stati Uniti e 2 in Europa. Professore, lei ci ha detto 7-8 anni, eccetera. È chiaro che la gente vuole una sorta di corsa contro il tempo, dice solo il vaccino ci salverà. Intanto due cose le chiedo: è vero che solo il vaccino ci toglierà la certezza, ci darà la certezza di avere debellato questo virus? E poi i tempi, quanto si può compendiare i 7-8 anni che servono e la necessità di fare presto? Che solo il vaccino ci salverà non lo possiamo dire, perché noi ancora non abbiamo un vaccino contro l'AIDS, non abbiamo un vaccino contro la malaria, ci sono decine di malattie infettive per le quali non abbiamo vaccino, non sappiamo quindi se questo vaccino arriva, anzi i vaccini ne arriveranno, ma se saranno efficaci come noi ci aspettiamo per trovare, come qualcuno si aspetta, la salvezza, questo ancora non lo possiamo dire, e prometterlo secondo me è anche un po' da irresponsabili. Poi per quanto riguarda i tempi, ma i tempi saranno brevi sicuramente, perché in questo momento si stanno anche sviluppando delle metodologie di sperimentazione clinica che saranno molto più efficaci, ma io mi aspetto che nell'arco di un paio di anni, ma anche prima, insomma, sicuramente entro la fine dell'anno e poi all'inizio del prossimo si andrà verso una fase 3 di sperimentazione e lì si potrà vedere. Ma quando andiamo verso una fase 3 di sperimentazione andiamo a testare l'efficacia del vaccino, e se questo vaccino fosse efficace come quello dell'influenza, che sta intorno al 50-60%, sarebbe un fallimento. Quindi fare un vaccino Tra l'altro molti ricordano anche il Fatto Quotidiano oggi che le aziende farmaceutiche non hanno questa grande convenienza. Certo, chi poi fa il vaccino e ne vende milioni di dosi guadagna, ma ci spieghi se davvero hanno una convenienza a investire in questo o se hanno più convenienza a produrre dei medicinali che rimarranno nel tempo per curare le malattie? Allora, in generale dipende dalla malattia, dipende da dove si trova la malattia infettiva. Certo, se è una malattia infettiva non particolarmente frequente, si trova in un paese in via di sviluppo, le case farmaceutiche non hanno grande convenienza, ma in questo caso le case farmaceutiche hanno una notevole convenienza, anche perché non hanno la minima garanzia che possono con la stessa rapidità trovare un farmaco che potrebbe risolvere il problema. Quindi io vedo, da quello che vedo, è che tutte le principali case farmaceutiche, tutte le case farmaceutiche che hanno centri di ricerca, rapporti stretti con centri di ricerca pubblici, impianti per la fabbricazione di vaccini, che sono in competizione tra di loro per sviluppare il vaccino migliore. E secondo chi poi lo venderà farà sicuramente bingo dal punto di vista economico. Esatto. Senta, professor Corbellini, lei ieri proprio sul Domenicale ha scritto della malaria, malaria per la quale non c'è il vaccino, però ha raccontato in un articolo molto interessante come sia stata debellata in Italia, e sono ormai 50 anni, no? Quindi, però la malaria colpisce ancora nel mondo, chiaramente. La malaria, sono 50 anni che l'OMS ha certificato l'Italia libera da malaria, ma l'Italia si è liberata dalla malaria intorno al 1948-50, insomma l'ultimo caso di morte da malaria grave fu nel 1948. Il caso italiano è stato un caso estremamente studiato e guardato in tutto il mondo, perché è stato un caso dove si sono integrate la ricerca sulla malattia, sulle basi ecologiche dell'infezione, sull'efficacia dei farmaci e sulle strategie anche di carattere politico istituzionale per rendere possibile questa lotta. Poi naturalmente l'Italia è riuscita a liberarsi della malaria perché noi ci troviamo in una zona temperata dove grazie all'uso del DDT, del cosiddetto famigerato DDT, siamo riusciti appunto a interrompere la trasmissione, cosa che con le stesse metodologie che si è provato a portare in Africa subsahariana, naturalmente non si è ottenuto lo stesso risultato, anche se negli ultimi 10 anni la diffusione della malaria nel mondo è notevolmente calata, ma ancora uccide almeno un milione di persone. Senta, per concludere, ma quando lei legge 300 milioni di dose la speranza americana entro il gennaio 2021, è fantascienza o... perché gennaio sono 6 mesi, 6 mesi. No, vabbè, è fantascienza. Certo, se domani mattina si riuscisse a trovare un principio attivo e lo somministrassimo a una serie di popolazioni che possono fare da volontari e che poi si offrono anche come volontari per farsi somministrare il virus, eccetera, potremmo arrivare ad avere l'autorizzazione per commercializzare forse un vaccino agli inizi dell'anno prossimo, ma poi bisognerebbe fabbricarlo. Tempo. Va bene, staremo a vedere. Intanto noi la ringraziamo molto, Gilberto Corbellini, grazie, insegna storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma, scrive sulle 24 ore, scrive sul Foglio e ci ha spiegato alcune cose molto interessanti sul tema vaccino. Allora, intanto andiamo a sentire un attimo di pubblicità, poi ci concentreremo sul tema turismo, perché avremo ospite l'amministratore delegato di Airbnb Italia. E poi voglio capire anche da voi, cari ascoltatori, sul turismo cosa ne pensiate. C'è da dire che sulla scuola moltissimi scrivono la scuola didattica, la didattica a distanza effettivamente non piace, c'è chi ce la definisce disastrosa, chi è scettico. anche giustamente un professore che dice anche i professori hanno diritto a lavorare in presenza, ma certo non se ne può più di lavorare al PC, scrive evidentemente un professore o una professoressa, ed è assolutamente vero, anche loro, per loro la scuola è prossimità, è contatto fisico, ecco, contatto fisico di sti tempi non possiamo dirlo, ma comunque vicinanza fisica. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, ma ce l'hai con le scuole e con gli studenti? Ma lasciali riposare sti ragazzi, che cavolo! Uè Milan, devi essere a Bergamo, che casino. Chissà se il belotto del camodre a piange. La mancata riapertura delle scuole mette ancora una volta in risalto come il settore privato riesce sempre ad adeguarsi alla situazione attuale, mentre il settore pubblico non ce la fa mai. Milan, ma se tu sei il prete e Leonardo il chierichetto, chi è la perpetua? Eh beh, qua abbiamo un'imbarazzo della scelta, o Miriam Lucchetti o Elisabetta Fusconi, almeno qui in redazione. Allora, Leonardone Manera, hai sentito? Hai sentito? Chierico Manera, buongiorno. Buongiorno, sentito, signor Lentopede. Vabbè, sì, Lentopede, Chierico. Ho notato Vestagliona, invece ieri, granito. Ho notato che ieri, visto che adesso pare che i casi siano un po' meno gravi, come dicevi anche tu all'inizio, che in alcune trasmissioni televisive si comincia a parlare di seconda ondata. Hai visto? La seconda ondata che potrebbe esserci in autunno, siccome adesso c'è un pochino di più calma. E allora, vabbè, perché dici che sono tutti pessimisti. No, dico per aumentare un po' l'agitazione di quelli che già ne hanno abbastanza, però... Attenzione che in autunno la potrebbe arrivare la seconda ondata. E ho visto anche i grafici della... Un attimo, calma, sì, va devo un po' dire, meglio. Mamma, mi tocca devo dire essere che ottimista. Effettivamente, mi tocca, sì, ma è incredibile. Ottimista. È incredibile, è incredibile. No, ma anch'io sono colpito dal fatto che... C'è quasi una sensazione di voler instillare del terrore. È giusto parlare delle preoccupazioni, però perché parlare adesso di seconda ondata se ancora non c'è? Voglio dire, vediamo. Siamo ancora in mezzo alla prima, tutto sommato, sia pure con effetti meno gravi, ma invece no, siccome la prima è un po' meno grave, cominciamo a far vedere i grafici della Spagnola, che ha avuto la seconda ondata più grave della prima. Allora, devo dire una cosa, io invece sabato ero in zona e allora ho chiamato, diciamo questa cosa Leonardo, ho fatto una telefonata a Leonardo, gli ho detto: Leonardo, ci sei? Se venga a bere un caffè, ovviamente a distanza, siamo affetti stabili, quindi, e abbiamo pubblicato, ho pubblicato sul mio Facebook la nostra foto in mascherina. Devo dire, è stato un... Su che cosa la gente si è concentrata a massacrarci? Sulle mascherine. Che mascherine brutte, che mascherine tristi, che... tutti che vogliono il trichini, la mascherina alla moda, la mascherina in pandon, la mascherina colorata, ma oh! Oh, ragazzi! Cioè, no? Guarda, io sono così ligio al dovere che mi sono cercato le mascherine, quelle non con l'elastico da mettere intorno all'orecchio, ma con i due laccetti da allacciare, uno sopra l'orecchio e uno sotto, in modo che se per caso prendo un caffè a sporto posso bere il caffè mantenendo la mascherina, stacco il laccetto sotto, sollevo un po' la mascherina ma tenendola sempre davanti al naso e confermo, assolutamente ligio alle regole. Siamo anche andati a salutare Jimmy del bar Jimmy, che devo dire l'ho visto un po' in difficoltà, nel senso, ma forza Jimmy, dai, che sto vedendo Boris, dai. Ma perché il bar di Jimmy è un bar in totale di 2 metri quadri, quindi no, può entrare... Non è vero, puoi entrare in mezza persona. Mezza, è il bar più piccolo del mondo, cioè, proprio... no. No, ci sta no, la vabbè, macchina allora, del caffè, Jimmy è una persona che sta mezza fuori. Quello, che sta mezza dentro, mezza fuori. Allora, salutiamo e lo ringraziamo per essere qui, l'amministratore delegato di Airbnb Italia, Giacomo Trovato. Buongiorno Trovato, grazie di essere qui in questa banda di matti, ci perdoni. Allora, Giacomo Trovato, noi abbiamo chiamato perché Airbnb, io vorrei capire che cosa succede. Ci sono state degli articoli che dicono, ah, basta Airbnb, cioè quel sistema di condividere le case che vale in tutto il mondo. Qualcuno dice, ah, ma a questo punto chi è che si fiderà più? Ci dica voi che preoccupazione avete, soprattutto per l'estate che arriva, se ha dei numeri da fornirci, Trovato. Ma allora, io quello che posso condividere è che noi prevediamo in realtà che l'offerta di Airbnb, in particolare l'ospitalità in casa, sarà il tema dell'anno per quest'estate, perché le case si prestano molto bene alla riapertura, le famiglie possono stare insieme mantenendo comunque l'isolamento. Abbiamo ad esempio 64.000 case con piscina, 33.000 case con accesso diretto al mare e al lago. La piscina ha superato il wifi come filtro di ricerca più utilizzato. È vero, confermo, tutti hanno fatto questa ricerca, vogliono una bella casa dove se ne stanno in piscina e stanno tranquilli. Quindi noi stiamo vedendo anche, dopo che soprattutto il governo ha come dire, annunciato le date della riapertura, abbiamo visto comunque negli ultimi 3 giorni un incremento delle prenotazioni del 92% rispetto agli stessi giorni della settimana precedente. Siamo ancora molto indietro rispetto all'anno scorso, però sono segnali incoraggianti che ci dicono che la casa può essere uno strumento essenziale per poter ripartire nel turismo, per i motivi che dicevo prima. Sì. Beh, in effetti rispetto all'idea di andare in albergo, noi abbiamo avuto anche gli albergatori che sono preoccupati tra 1000 normative dell'INAIL, 1000 problematiche di sanificazione, il personale, il rischio di una quarantena se scoppia, se si trova un positivo. Invece lei dice la casa, il nucleo familiare o magari 2 nuclei familiari si trasferiscono e sono un po' come a casa. Certo, c'è questa idea in previsione della grande richiesta, se anche i prezzi tendenzialmente aumenteranno. No, io in realtà quello che stiamo rilevando è che i prezzi non stanno aumentando. Noi stiamo lavorando molto con i nostri proprietari di casa su 2 fronti. Il primo è appunto la predisposizione di offerte promozionali, considerando che tante famiglie comunque state colpite economicamente da questa crisi. Il secondo è la gente vuole poter rientrare in possesso delle somme nel caso sventurato in cui non dovesse poter partire, e quindi il 70% delle nostre case hanno già adottato delle politiche di cancellazioni flessibili, e quindi queste sono, diciamo, il nostro sforzo principale, però riteniamo che siano degli strumenti essenziali perché la gente possa fare una prenotazione con un po' di tranquillità. Ecco, cosa vuol dire flessibili? Cioè, ci faccia capire, fino a quanti giorni prima della partenza uno può annullare perché magari succede che non può più partire? Ma abbiamo alcuni che adottano le politiche di cancellazioni che consentono il rimborso fino a 24 ore prima della partenza, altri fino a 7 giorni prima della partenza. Se io sommo queste 2 opzioni, parliamo del 70% delle case che hanno una di queste 2 opzioni. Beh, insomma, che vuol dire che è anche una sicurezza economica. Senta, prenotano anche dall'estero, perché abbiamo capito questa cosa. Dal 3 giugno, pare, riapriranno le frontiere. Anche qui bisogna capire. Giustamente prima sentivo un ascoltatore nella trasmissione precedente a dire, ma scusate, ci dicono di stare tutti a 1 metro di distanza, eccetera, e poi... guardate, agenzia di poco fa, manco farla apposta, è arrivato il primo volo da Sofia, quindi dalla Bulgaria, atterrato a Bergamo. Allora, distanziamento sociale, ma se poi arrivano persone dall'estero, come la mettiamo? Ecco, le prenotazioni di stranieri ci sono, Trovato? In questo momento stiamo vedendo soprattutto prenotazioni di italiani. Però devo dire che dopo che il governo ha annunciato appunto che il 3 giugno si riaprono le frontiere, abbiamo visto una crescita delle prenotazioni soprattutto dalla Germania e dalla Francia. Ecco, vedete. Quindi insomma il turismo, voglio dire, i tedeschi soprattutto, i francesi vogliono tornare a fare le vacanze in Italia. Quanto le sanificazioni anche, le sanificazioni saranno garantite in modo efficace. Il tema della sanificazione è molto importante. Noi quello che abbiamo in programma di introdurre alla fine di maggio è un protocollo di sanificazione che abbiamo sviluppato in collaborazione con le principali autorità sanitarie mondiali, in particolare il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie negli Stati Uniti, e quindi aiuteremo i nostri atleti a passare attraverso un programma di formazione, di certificazione, e mostreremo ai viaggiatori chi è passato attraverso questo protocollo, questa certificazione, e introdurremo anche un intervallo di 24 ore tra una prenotazione e l'altra. Eh beh, certo, per permettere di sanificare. Guardate, insomma, mi sembra di capire che non siete preoccupati per un crollo degli affari che ci sarà stato in questi due mesi, ma che tendenzialmente adesso potrebbe ripartire per Airbnb, o no? Ma preoccupati, dire che non siamo preoccupati è un po' forte. È chiaro che noi ancora registriamo un fortissimo calo rispetto all'anno precedente. Ho dato qualche segnale positivo perché sembra essere iniziato un trend che speriamo possa continuare, però crediamo che il settore sia ancora fragile, abbia bisogno un po' di essere sostenuto da tutti, chiaramente da noi con le nostre politiche, ma anche dalle istituzioni. Ecco, da questo punto di vista, l'ultima domanda: avete avuto dalle istituzioni qualche tipo di risposta economica? Parlo proprio dal punto di vista economico. Ma la verità è che in questo momento il governo ha fatto una scelta di escludere dal credito d'imposta che è stato introdotto le piattaforme, e crediamo che questo sia sbagliato non tanto perché noi contestiamo il fatto che una persona che vuole andare in una destinazione conosca già una struttura possa prenotare direttamente, assolutamente, tra l'altro il credito d'imposta non spetterebbe comunque a noi, però quello che vorremmo venisse riconosciuto è che tante persone nel momento in cui esplorano una possibile destinazione magari non conoscono delle strutture in luogo in quella destinazione, e quindi una piattaforma come Airbnb garantisce un servizio, uno di garantire trasparenza, uno può confrontare offerte forte delle recensioni di chi c'è già stato, sì, una garanzia sul pagamento, talvolta quando si fanno delle prenotazioni consultando bacheche Facebook, il proprietario chiede una caparra via bonifico, e questo espone a dei rischi il viaggiatore. Noi in realtà intermediamo il pagamento, garantiamo che il pagamento avviene soltanto quando il viaggiatore è entrato nella struttura con soddisfazione. Noi garantiamo appunto la flessibilità e garantiamo la qualità del servizio, un'assicurazione per i danni che un viaggiatore possa fare nella casa a beneficio del proprietario, un'assicurazione sulla responsabilità civile, un servizio clienti. Quindi ci sembra in realtà che estendere anche a una piattaforma come Airbnb sia tutelare il consumatore. Questa è l'osservazione che abbiamo fatto. Leo, hai un'ultima curiosità? Mi è venuta una curiosità. Mettiamo che una famiglia vada in vacanza in un appartamento, poi uno di loro si scopre avere il coronavirus, poi loro devono rimanere lì a fare la quarantena magari per altri 15 giorni quando magari aveva già prenotato un'altra famiglia, o si sa già come comportarsi in questo malaugurato caso? Ma parliamo di casi abbastanza eccezionali, però in quel caso introduciamo in accordo col proprietario di casa la migliore modalità per gestire questa situazione, non è necessariamente la stessa per tutti, è chiaro che può rimanere in quella casa oppure ci deve essere un modo sicuro per spostarsi e tornare magari alla propria abitazione, però è molto caso per caso. Sì, andrebbe, dice, va valutato quando e se, e speriamo non succeda, dovesse succedere. Noi la ringraziamo. Giacomo Trovato, amministratore delegato di Airbnb Italia. Allora, cari ascoltatori, il messaggio più bello è questo che è arrivato. Caro Leonardo, tu ti chiedi, aspetta, vai a beccarlo perché l'ho perso. Vabbè, comunque diceva questo, ti chiedi come fanno a sapere cosa succederà a settembre, eccolo qua, semplice, è già programmato. cosa vuol dire più semplice di così? No. E su questo aggiungo, ci sono documenti che parlano molto chiaro. E qui, beh, e qui entriamo nel complottismo. Cioè, se ce li manda, esatto. 100 Milan che... @radio24.it. Se ci manda questi documenti, noi, caro ascoltatore, li esaminiamo. Io li leggo perché in questi mesi comunque mio malgrado sono diventato un po' complottista e quindi li mandi che io perché li leggo. Perché tuo malgrado? Tu sei un po' complottista. Prima non lo ero. Adesso frequentando anche te sono diventato più complottista. Ma perché malgrado? Vuol dire che sei infelice nel tuo complottismo un po'? Sì, non, preferirei non esserlo, ma insomma mio malgrado un po' lo sono diventato. Ma sì, lo con gioia, non ti preoccupare. Sono felicemente complottista. Oh, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. No, ma che padre Milan, io ti vedo il grande imam Milan. Allah ti benedica, assalamu alaikum. Allora, io regalo l'insegna al bar Jimmy, gliela faccio io gratis. Importante che i colori non siano nero, azzurro, bianco, neri, Riguardo le vacanze estive, quest'anno sicuramente io e la mia famiglia rimarremo a casa. Non abbiamo ancora preso la cassa integrazione, perciò facciamo fatica ad andare avanti, e anche se ci danno il bonus 500 euro per andare in vacanza, lo lascio a qualcun altro che può andare. Accidenti. Allora, alle 9:49 minuti, Angelica stava disegnando dei baffi finti a una parrucca su una foto di Trump. Non ho capito qui sul giornale. Allora, siccome uno studente su due dice non siamo contenti della didattica online o siamo contenti, tu Angelica in quale categoria rientri? Contente o non contente? Non contenti. Perché? Perché non sono molto concentrata. Non sono molto. Ecco, cercare di essere concentrati. A proposito, vai a studiare, appunto, alla scuola mai. Eccoci qua. Antonella dalla provincia. La colpa è di tuo padre. Stare concentrata. Cioè, eccolo. No, è colpa di tuo padre che non ti ha saputo infondere è la andata giusta via, motivazione. È andata via, tranquillo. Glielo dici poi privatamente. Antonella dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho ascoltato le vostre alcune appunto la ragazzina che ha detto che non è contenta della didattica a distanza. Sì. Io sono un'insegnante, insegno da più di 25 anni in un liceo scientifico e linguistico, quindi direi che un po' di esperienza ne ho, e con questa didattica a distanza ho dovuto veramente impegnarmi tantissimo. Io lavoro non solo la mattina con i miei studenti, ma anche il pomeriggio per preparare lezioni, video, eccetera, e mi seguono tutti. Cioè, capisco che per loro non può, è facile dire non funziona, ma parliamoci chiaro, anche a scuola certe volte si distraggono ed è più facile distrarsi, mentre devo dire che con la didattica a distanza devono essere concentrati, perché noi con questo sistema li vediamo davanti allo schermo, per cui possiamo richiamarli, possiamo fare lezioni, tantissimi tipi di lezioni. Ma quindi lei sta dicendo che non è poi così brutta, insomma, poi come così, alternativa. Anzi, io ho dei ragazzi di quinta liceo che mi seguono tantissimo, mi chiedono di fare più lezioni. E a questo proposito la nostra ministra ha detto che abbiamo salvato delle vite chiudendo la scuola. Allora entra in contraddizione nel momento in cui l'esame di maturità lo fa in presenza. Forse le persone che stanno al di fuori della scuola non hanno idea di cosa sia un esame di maturità con 6 persone, uno studente in presenza. Vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto tenendo chiuse le scuole è perso. Antonella, lei sta dicendo quindi che si può andare avanti così, ma negli altri paesi come fanno? Che mettono in campo degli... Negli altri paesi hanno preso diverse misure e vedremo più avanti quali saranno i risultati. Io le dico solo questo, che all'università fanno gli esami, io ho 2 figlie, gli esami li hanno fatti online Le mie figlie hanno studiato tantissimo. Ma l'università, preparate. Scusi, l'università già si ha a che fare con dei giovani molto più adulti, ma cioè lei pensa di poter fare una scuola elementare, una prima elementare a distanza? No, io cioè, sto parlando di un liceo e sto parlando soprattutto dell'esame di maturità. Cioè un esame di maturità. Capito, certo, però la scuola parte dai 3 anni. Sì, ecco, sì, sono due discorsi diversi. Quindi lei, diciamo così, liceo e per quel che è la sua esperienza, e l'esame di maturità si può fare anche a distanza, mentre già il liceo sono 5 anni e 5 anni cambiano tantissimo nella formazione dei ragazzi, forse prima liceo sono ancora proprio terza media, ecco. Quinta liceo sono già più maturi. Comunque la nostra Antonella insegnante dice questo. Leonardo, a te. Allora, grazie. Allora, a quanto pare i reparti di terapia intensiva cominciano a svuotarsi, meno ingressi, in generale casi meno gravi. È un'ottima notizia anche per medici e infermieri che sono meno sotto pressione. Il coronavirus ha portato a rivalutare queste figure, medici e infermieri, che fino a poco prima dell'emergenza, in alcuni casi, non sempre godevano di grande considerazione. Soprattutto i medici a volte non erano ben visti. Spesso, infatti, erano gli infermieri che avevano il vero contatto umano col paziente in ospedale. Di mattina, verso le 9, c'era il consueto passaggio dei medici, che però spesso, più che occuparsi del paziente, davano un'occhiata alla cartella clinica per poi andare via velocemente, mentre il malato avrebbe voluto fare decine di domande che inevitabilmente restavano senza risposta. Domande che poi venivano fatte all'infermiere di turno, che qualche volta rispondeva, ma più spesso diceva bisogna chiederlo al medico, che però era andato via. E allora il paziente restava lì tutto il giorno con i suoi dubbi, in attesa che poi di sera, nell'orario di visita, andassero a trovarli i parenti. Il cibo a pranzo e a cena era sempre monocolore. I cibi che si mangiano in ospedale hanno tutti varie tonalità di marrone. Qualsiasi cibo in ospedale, chissà perché, diventa marrone, marroncino. Il prosciutto cotto diventa marrone, pasta e riso marroni, le pere e le mele cotte marroncine. Se capita del riso col pomodoro, anche il pomodoro, chissà perché, diventa marrone, non si sa come mai. Il paziente deve ingurgitare quel marrone, che spesso è francamente immangiabile, tra le bugie dei parenti che invece dicono mangia, mangia che è buono, mangia, mangia che è buono. Lo vedono anche loro che è così, marrone. Il problema principale per chi si trova in ospedale è quasi sempre la solitudine. È capitato anche a me di stare in alcuni periodi in ospedale, in particolare una volta era primavera inoltrata e ricordo che quando veniva a trovarmi qualcuno e poi dopo se ne andava, io restavo lì a guardarlo dalla finestra immaginando quello che avrebbe potuto fare fuori, mentre il mio massimo orizzonte era andare a scambiare 2 parole nella sala infermiere, se proprio mi andava bene, di bere un caffè con loro. Quando ti trovi da solo in ospedale, i rumori, le parole, qualche volta le risate che arrivano dalla sala infermiere rappresenta la trasgressione, la felicità, la vita. Quando sei nella tua cameretta, magari in compagnia di un'altra persona che non conosci, vorresti arrivare fin là, nella sala infermiere, per sentirti ancora parte della vita attiva. Quando sei in ospedale, la sala infermiere è meglio della discoteca, la caposala diventa la tua animatrice di riferimento. Poi quando cominci a stare meglio cammini su e giù per il corridoio incrociando con gli occhi gli altri malati che stanno come te e arrivando quando si può fino alla macchinetta del caffè che vorresti parlasse, ma se sei proprio fortunato al massimo ti dai il resto. In questi 3 mesi molte persone hanno avuto la sfortuna di dover andare in ospedale nei reparti di terapia intensiva, molti non ce l'hanno fatta, molti altri invece ne sono usciti grazie proprio ai medici, agli infermieri, al personale sanitario. Quel senso di distacco che c'era prima nei confronti di chi ci curava è crollato. Abbiamo avuto la sensazione, anzi la certezza, di essere lì in ospedale per essere curati. Spesso prima del coronavirus chi entrava in ospedale aveva la sensazione di smettere di essere una persona e di diventare solo un numero, una cartella clinica. Il coronavirus, pur nella sua drammaticità, ha però avuto almeno un aspetto positivo, ci ha di nuovo trasformati in persone curate da altre persone e forse perfino il cibo ha smesso di essere solo marrone e ha ripreso i colori normali della vita, della vita. Io comunque se posso, se mi dovesse ricapitare, quel cibo marrone non lo mangio. Marrone. Ho fatto il finale, ho fatto la finta di finale perché almeno la finta di finale per avere due applausi, sei veramente vergognoso. Esatto. Carmelo, ce la facciamo mandare Sala? Ce la facciamo mandare Sala in chiusura sull'appello alla Madonnina oppure non ho capito. Ce la facciamo. Allora, senti qua, il sindaco di Milano Sala si appella alla Madonnina di Milano, non lo so, fate voi. Ci rivolgiamo alla Madonnina che da lassù continua a guardare a tutta la città per dirle che noi tutti stiamo cercando di fare bene, stiamo provando a riaccendere la città con prudenza, attenzione e cura verso gli altri. Tu non farci mai mancare il tuo sguardo. Capito Leo, così è, ci affidiamo alla Madonnina. Quando si arriva a questo uno dice aia, vuol dire che non ci sono altre possibilità. No, ce ne sono, dai. Prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui, ritorniamo subito dopo, parliamo delle scuole paritarie in sciopero, incredibile questa, e di altre tematiche. Ciao, sono Marco da Roma, I love my radio. Ciao, sono Linda da Follonica, I love my radio. Ciao, sono Michela di Milano, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 35% di persone la ascolta per più tempo. Il 43% la ascolta da supporti digitali. E nella fascia 14-44 anni raggiunge l'88% della popolazione. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Il segnale orario vi è offerto da L'acqua è vita. Scegli chi ne fa un uso responsabile. Formaggio Gran Moravia. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, primo caffè al banco. Speriamo bene. Ma una curiosità, non si parla assolutamente dei campeggi. Io abito in Toscana, in provincia di Livorno, e da noi ce ne sono moltissimi. Nessuno ne parla, mai una notizia, niente, siamo proprio invisibili. Riuscite a farci sapere qualcosa? Ho un appartamento che affitto anche Airbnb. Per la sanificazione ho sentito delle ditte specializzate che mi hanno chiesto 300 euro per sanificare l'ambiente. A che prezzo devo fare la camera? Effettivamente, Leonardo, 300 euro, pensa se uno ti affitta 3 giorni e poi devi sanificare 300 euro ogni 3 giorni. Che fai? Ti Forse fai un caffè? Bisognerà fare un prezzo stabilito. Sì, ho mangiato una galletta. No, ma fai pure colazione, tranquillo. Come allora, era il cappuccio? No, il cappuccio l'ho preso prima. Adesso devo mangiare una galletta con sopra un po' di pesto al pistacchio. Mamma mia, ragazzi, ma perché mi devi fare... Cioè, vai a fare colazione al Bar Jimmy così, con un piede dentro e un piede fuori piuttosto. Pensa alla prima colazione posso, al Bar Jimmy. Sono ancora in pigiama. No, dicevo che forse bisognerebbe stabilire per legge, come per le mascherine, il prezzo delle sanificazioni. Visto che quello delle mascherine ha avuto successo come prezzo stabilito. Sì, tra l'altro l'ascoltatore del camping ci mandi una mail 100.000@radio24.it, legge un articolo che sarà un'estate in tenda perché molti non si fideranno, appunto, quindi riscopriranno le tende, non lo so, ci chiami, ne parliamo. Allora, però adesso voglio parlare di scuola, torniamo sul tema scuola. Ieri leggevo Alessandro De Nicola, avvocato, docente da Bocconi, economista liberale, su Repubblica, parlava delle paritarie, le scuole paritarie. Torniamo su questo tema, perché diceva De Nicola alle paritarie in questo decreto rilancio vanno pochissimi soldi, sono poche decine di milioni, si chiede De Nicola, e allora la Costituzione non recita la famosa frasetta senza oneri per lo Stato quando parla di scuola privata? E poi si risponde De Nicola, in realtà attenzione, evitare il fallimento delle scuole private significa oggi evitare oneri per lo Stato. In media il costo annuale di un alunno del sistema pubblico è di 6.000 euro, mentre il contributo medio del governo per ogni scolaro delle paritarie è 7.000 euro. 750 euro. Dunque, facendo una moltiplicazione, ci sono 866.000 studenti nelle scuole paritarie. Se un terzo di loro si riversasse sullo Stato per la chiusura delle scuole paritarie, il conto sarebbe fatto: 5.250 per 290.000, vabbè, insomma, morale della favola, 1.522.000.000 di euro, senza contare la disoccupazione di molti dipendenti degli istituti paritari, eccetera, eccetera. Queste cifre suor Anna Moni Alfieri ce le aveva già dette varie volte qui. Buongiorno suor Anna. Buongiorno. Come sta? Grazie, bene, come sta? Grazie. Bene. Beh, andiamo allora, avanti combattendo a testa alta. Combattendo a testa alta. Leonardo, guarda che suor Anna è una suora combattiva, appunto. È dir poco. Senta, suor Anna, veniamo da una notizia. Ma è vero, sono anche interessato, visto che i miei due figli vanno ai Salesiani, è vero che domani e dopodomani c'è uno sciopero degli insegnanti delle scuole paritarie? Abbastanza incredibile questa notizia. No, non è esattamente, non esattamente, cioè nel senso che è così. Che cosa succede? Succede che domani, il 19 e il 20, partono le elezioni al Senato di questi emendamenti presentati da destra e da sinistra. Abbiamo bisogno della maggioranza numerica, io mi auguro sempre politica, perché passino. E se non passano questi emendamenti, che appunto, come saggiamente dice De Nicola, che cosa succede? Succede che a giugno 300.000 scuole e il 30% delle 12.000 scuole e 300.000 alunni quindi si riversano nella scuola statale e queste chiudono, e sono le scuole dalle rette sotto 2005 per l'infanzia e 3.000-3.500 per la primaria. Ma che queste sono le previsioni, e poi si vedrà quanti non potranno più pagare la retta, però esatto, sì, è un'idea, il 30%. No, abbiamo il rischio di pensare che è un bluff questa storia qui, quindi è allarme sociale, perché questa storia qui non soltanto è tanto vera che noi abbiamo economisti che su Repubblica la denunciano e quindi testate giornalistiche, ma è talmente vera che questa roba qui costa 2,4 miliardi di euro allo Stato a settembre, che va ad aggiungersi all'allarme dei 3 miliardi che gli servono per riaprire la scuola statale. Quindi il concetto cos'è? Questa operazione di salvataggio cuba 1 miliardo di euro, ma uno Stato che deve spendere 55 miliardi di euro e dice: io ignoro il comparto del mondo delle scuole paritarie, 12.000 scuole, 900.000 alunni, e preferisco uccidere tutto il comparto del sistema scuola statale che cuba 40.000 scuole statali con 7 milioni di studenti e non farla ripartire a settembre e chiedere 5,4 miliardi di euro è un gesto irresponsabile. Ecco, infatti, guardi, arriva subito suor Anna per dire come la gente ragiona per slogan. Arriva subito questo messaggio: basta soldi alle private. La risposta la dico io, poi ce la dice suor Anna. Va bene, basta soldi alle private, però ci stiamo cercando di far capire che se il 30% delle scuole chiude, o se molte famiglie in difficoltà non potranno più mandare alle paritarie, che poi è il termine giusto, questi studenti, le manderanno alle statali. E costano allo Stato questi studenti, cioè non è che sono. Quindi va bene, non diamo più soldi alle paritarie, però tiriamoli fuori come è stato. Chi sta a scritto è connesso con quello che stiamo dicendo o no, con tutto il rispetto parlando? Chi sta chiedendo i soldi alle paritarie? Qui è un altro concetto. Queste famiglie che vanno nelle paritarie non soltanto non hanno soldi dallo Stato perché destina solo 500 euro e il compagnetto che va nella scuola statale gli costa 8.000 euro, ma peggio, sono loro che danno i soldi allo Stato e ne danno 6 miliardi di euro all'anno, e qui l'esatto contrario, qui non si stanno chiedendo soldi alle paritarie, si sta chiedendo a questa famiglia di essere aiutata a pagare la retta, perché collassa tutto il sistema. Tre sono gli allarmi, se vuole glieli dico perché forse non sono sufficientemente chiaro. Un allarme è sono 5,4 miliardi di euro che andranno a essere chiesti anche a chi ha detto no alle private. Secondo, la scuola non riparte, se non riparte la scuola non riparte il paese, e in alcune zone della periferia e del centro-sud la mafia e la camorra hanno già messo gli occhi su questi ragazzini. Terzo, se non riapriamo il comparto 0-6 anni, le donne dovranno occuparsi di questi bambini, e non saranno le donne più ricche, ma che si possono pagare la babysitter, ma le più povere, e bruciamo 20 anni di combattimento sulle pari opportunità. No, ma è chiaro che è una questione di visione. Ecco, se uno pensa sgravare queste famiglie che non ce la fanno a pagare la retta, se vuol dire un'assistenza di Stato, non ne usciamo più vivi. Se invece uno dice, se questo serve a mantenere in piedi delle scuole paritarie, quindi pubbliche, ma con un servizio pubblico paritario, e sgrava i costi dallo Stato, forse abbiamo una visione più generale. Però questa è l'unica soluzione, peraltro in questo momento bisogna mettere giù il cappello dell'ideologia, ma anche quello della irresponsabilità. Tutta la classe politica l'ha capito, cioè, ma noi dobbiamo farci questa domanda: perché siamo disposti, ed è la domanda più profonda, siamo disposti a non far ripartire la scuola? Perché col distanziamento totale lo Stato oggi spende 8.000-10.000 per un allievo della scuola statale. Col distanziamento sociale tutti i costi saranno raddoppiati. Però cosa risponde a chi dice, Soranna, qualcuno dice, oh, sarebbe una bella occasione per rafforzare e investire nella scuola statale, finalmente. Cioè, arriva anche questo messaggio. Le rispondo da economista. Investire nella scuola statale, oggi lo Stato per un allievo, apriamo bene le orecchie, per un allievo che va nella scuola statale destina 8.500-10.000 euro all'anno. Un allievo non può costare questa cifra, segno che è una cifra fuori controllo. Non si tratta di investire più danari, e gli economisti lo sanno, ma si tratta a un certo punto di gestirli meglio. Chi dice ciò dovrebbe rispondere a questa domanda reale. Dove mentre invece per chi se manca la cassa igienica quindi, mancano i docenti. Quindi 8.500-10.000 euro è quello che si investe per ogni allievo all'anno da parte dello Stato, invece per ogni scolaro di paritaria il contributo mi risulta, De Nicola dice, di 750 euro l'anno. 750, le risulta anche lei questa cifra? Nicola, questo studio lo prende dallo studio che noi gli abbiamo fatto, io penso perché è identico, ma magari invece è bello che lo condivida, con l'Istituto Bruno Leoni, un istituto laico di ricerca. Sì, abbiamo appena pubblicato uno studio dove abbiamo dimostrato quanto dà all'allievo della scuola paritaria e quanto costerebbe questa operazione. Lo Stato italiano destina all'allievo della scuola paritaria 512 milioni di euro, pari a 500 euro più. Con la detrazione che viene concessa del 19% con le classi sociali, si arriva a 700 euro. Questo è quella cifra lì. Però lo Stato italiano sa bene che questo allievo costa 6.600. Vuole che le dica una cosa? Lo Stato italiano ogni anno, pochi giorni fa, a firma della ministra Azzolina, ha dovuto dichiarare quanto è il costo medio studente. Lui ha dichiarato che 6.600 euro, che in Europa vuol dire che lui dice, guardate che tutte le scuole paritarie che hanno una retta sotto il costo medio studente, cioè 6.600, sono scuole della retta simbolica. Come fa a pensare che queste scuole, e così arriva la domanda, si siano mantenute negli anni corretti di 2, 3, 3.500, quando lui sa che costa 6.600? Come? Sì. Indebitandosi. E ora sono talmente indebitate che rischiano di chiudere. Capito Leonardo Manera come combattiva la nostra suora Anna Moni Alfieri, che ha tre lauree. Quello che ho capito io è che ho capito che la situazione è complicata. Propongo una task force per dirimere il problema. Task force, lei ne farebbe parte, suora Anna Moni, di una bella task force. Beh, visto, non abbiamo più fattore tempo, domani devono votare sia gli emendamenti, tutte le scuole domani non è che fanno sciopero bloccando le lezioni, facendo una didattica alternativa. C'è un rumore talmente forte, perché sono centinaia che si sono organizzate, che tempesteremo gli indirizzi dei politici, dei parlamentari, del Premier, di mail. Sulle pagine Facebook ci saranno delle dirette H24 dove parleremo di questo tema. Vogliamo vedere se oseranno votare no agli emendamenti, perché allora a quel punto lì sarebbe l'atto più scellerato per non far ripartire il paese, perché come vedete hanno detto che aprono tutto tranne la scuola, segno che la scuola non la possono riaprire. Allora, staremo a vedere. Intanto noi la ringraziamo, vediamo, sì, ci sono effettivamente emendamenti di alcune forze parlamentari che dicono è una visione miope quella di non dare, di dare pochi spiccioli, qualche decina di milioni alle scuole paritarie per permettere agli genitori che non ce la fanno di sgravare le loro rette, di non pagare le rette, perché così chiudono molte scuole oppure molti genitori non ce la faranno più, ritireranno i loro studenti dalle paritarie, li dirotteranno sullo Stato, e questo comporterà un aggravio di costi per lo Stato. Quindi anche tutti coloro che ci scrivono dicendo sì, ma perché dovremmo pagarle noi? Ma a certo. Settembre stiamo cercando di spiegare il numero nella mano che ne pagherete di più tutti noi con le tasse. Sì, sì. Il paradosso è che con le scuole paritarie lo Stato risparmia, una cosa che non è sì. Nell'immaginario comune. Eh sì, cioè, però, lì, al di fuori dell'ideologia è così, perché appunto lo Stato spende 8.500-10.000 euro a allievo alla statale, mentre un allievo alle paritarie costa allo Stato 750 euro. Insomma, sono numeri che balzano subito all'occhio. Però traffico, se invece la vogliamo mettere sull'ideologia, siamo qui, diteci la vostra. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Sala, sindaco che evoca la Madonnina e fa la stessa cosa di Salvini con in mano il rosario. Allora, io non sono leghista, ma quando lo fa Salvini Milan magari lo prende in giro come tanti altri. Lo fa Sala, ci si scherza su un pochino, è la stessa cosa. Milan, buongiorno. Ora hai l'occasione per eliminare le province, perché sono veramente inutili. Ah, e cosa devo fare? È vero, ci siamo? È vero che si parla siamo poco noi, sì. Delle province, non si parla più delle province in questo periodo, solo Stato sì. E regioni. Ma allora, devo dire invece all'ascoltatore, guardate che ho mandato in onda Sala perché non era certo un elogio, poi dopo, come al solito c'è la solita idea, Leonardo, se non lo mandi in onda lo censuri, se lo mandi in onda non lo hai criticato abbastanza, se lo critichi abbastanza passi dalla parte del torto. Trovo abbastanza incredibile, cioè, l'appello alla Madonnina, cioè, nel senso, per carità, che la faccia l'arcivescovo di Milano ci sta tutto, ma il sindaco di Milano, ma sì, va bene, appelliamoci alla Madonnina, ma voglio dire, sai, magari facciamo le cose per prima, bene, che tu guardaci Madonnina, Salò, non ci fa male, certo non ci fa male, però a Salò c'è la statua San Carlo che fermò la peste, c'è la statua di San Carlo con una mano che dice fermati. Non so se poi la peste a Salò sia arrivata o meno. Sarà stato un bambino discolo, peste. Per un ragazzino che correva per Salò. Peste! Sai che ogni tanto ai ragazzini che corrono si dice peste, fermati. E il ragazzino si fermò e tutti, no? Io ho invitato in apertura Gilberto Corbellini che ci ha spiegato la storia della malaria e come l'abbiamo debellata. Bastava dire malaria! Porre fermati. Una mano e fermati. Fermati. Però dico che in Italia evidentemente è una tradizione rivolgersi. Ho capito, va bene, ma il sindaco di Salò va davanti alla statua dicendo aiutaci tu, o mette il plexiglass nei ristoranti? Bisogna verificare, andrò a Salò a verificare questo fatto. Potremmo chiamare il sindaco di Salò per vedere se lo conosci, a San Carlo. Sfida Lucchetti, vediamo se troviamo il sindaco di Salò, vedere se conosce Leonardo Manera come vediamo un po' i grandi natali di Salò, chi sono i grandi che hanno avuto? C'è Gasparo da Salò e Sio Bonetti, che non è nato a Manera. Gasparo Salò è il creatore del violino praticamente. Giusto, me l'avevi detto. Sì, Gasparo da Salò. Che peraltro il Bonetti manco è nato a Salò, però così. È nato a Milano, però poi ha vissuto a Salò tanti anni. Di Salò. Dai, cerchiamolo, sfida Lucchetti, cerchiamo il sindaco di Salò. Elena dalla provincia di Genova, ma forse l'avevamo già anche avuto ospite una volta. Elena dalla provincia di Genova, buongiorno Elena. Buongiorno, ciao, no, non vi ho mai chiamato, volevo un cerchio con il tema della trasmissione, ma sono felice perché sono fuori dopo 60 giorni di Covid, sono un operatore sanitario Ok, oggi è il primo giorno di libertà e ricomincio a lavorare in struttura. Che bello, cioè che bello, ci spiace che sia dovuta passare attraverso questo. Volevo ringraziarvi perché mi avete tenuto tantissimo compagnia, ero sola in casa, malata, e siete stati fantastici, mi avete fatto commuovere e ridere in questo momento. Ma che bello, ma siamo commossi. Quindi, noi, Elena, è una telefonata melassa, ma bella. No, insomma, beh, è bellissimo. E volevo solo ringraziarvi. Grazie, vuol dire che serviamo a qualcosa anche noi, non siamo totalmente inutili, abbiamo un minimo di ruolo. No, visto che ci vogliono licenziare, diciamo, ma noi porteremo Elena, testimone dal direttore del personale, a dire noi serviamo alle tante e ai tanti Elena. No, tra l'altro mi permette, grazie Elena per questa telefonata, mi permette di salutare, non lo facciamo mai abbastanza Leonardo, le tante persone che generalmente ci ascoltano anche dagli ospedali. Succede, molte persone che sono in momenti di difficoltà, speriamo temporanei, e che magari dicono si trovano un po' più vicini a noi, si sentono nelle tante ore di solitudine anche negli ospedali, si sentono con noi due come degli amici, di compagnia. Ma ci fa piacere. Questo lo dici tu per vantarti, lo dici tu per vantarti, io non ho mai sentito questa cosa, comunque ti credo. Vabbè, ma dai, ma non è vero, ci scrivono. Ma guarda che, vabbè, mandiamo un abbraccio ai due che ci ascoltano negli ospedali italiani. Non so, ci saranno due che ci ascoltano. So che ascoltano Radio Bella e Monella, per dire. Non ho stato poco. Va bene. Massimiliano dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Mila, buongiorno Manera. Eccoci. Niente, io volevo far visto e considerato che in questo periodo ho sempre lavorato e sono un runner, ho avuto modo di vedere un po' l'evoluzione dei comportamenti delle persone in questi due mesi. E a parte forse il primo mese in cui la gente era lì già, perché c'è un sacco di confusione in giro, era lì già nei comportamenti, dopo il primo mese la gente ha cominciato a, tra virgolette, come si suol dire, sbragarsi. E la curva è arrivata al massimo in questo periodo. Io abito nella zona nord di Milano, per cui sabato e la domenica sono andato a farmi un giro sul Villoresi con le bambine e io ho visto un sacco di gente in giro senza mascherine, a fare agglomerati, gelaterie aperte dove si entrava una persona alla volta, ma appena fuori dalla gelateria gruppi di 7-8 persone che magari era da tanto che non si vedevano vicine a parlare, a mangiare il gelato. Allora, devo dire che Massimiliano, un po' confermo, anch'io ieri ho fatto una passeggiata al Parco Trotter che è vicino a casa mia e ci sono persone che stendono il telo e stanno lì in 4-5, ne ho viste diverse, in 4-5 in cerchio senza mascherina a parlare. No, cioè è vietato fermarsi, è vietato non avere la mascherina e forse erano anche troppo vicini. Io invece un po' devo smentire perché ieri ho fatto un giro al Parco Lambro e devo dire che invece al Parco Lambro le persone erano abbastanza così, si comportavano secondo le regole. Io sostengo che siano una minoranza, però Massimiliano cosa ha notato invece? Che stanno aumentando di numero in questa così statistica un po' abborracciata, però Massimiliano. Non so se nella zona dell'Alto Milanese sono più indisciplinati, però ho avuto modo di vedere proprio uno. E io ripeto, ho girato spesso per lavoro in questi due mesi a Milano e via discorrendo, ma ultimamente vedo veramente la gente che. E questa cosa mi preoccupa perché se veramente il virus è rimasto così virulento, tra 3 settimane ci ritroviamo tutti nella stessa situazione di prima. Invece, come dicevano stamattina, perché io vi ascolto sempre, sta diventando meno aggressivo perché è cambiato il virus e siamo cambiati noi, forse saremo fortunati, non lo so. Però, sì. Vedremo Massimiliano, vedremo. Comunque, io devo dire, secondo me è una minoranza che non rispetta le regole, però un po' di persone che bivaccano così, no? Ciondolano, ti piace? Prima si diceva dei migranti, adesso le persone ciondolano però senza mascherina. Vorrei anche dire a Massimiliano che è risaputo che nell'Alto Milanese le persone siano più indisciplinate. Smettila. Salutiamo tutti gli ascoltatori dell'Alto Milanese, tra l'altro io sono di Sesto San Giovanni, che è l'Alto Milanese. Grande abbraccio al sindaco, forza Prosesto, tutto l'Alto Milanese io lo abbraccerei stretto in questo momento. Ma senti, no, Leonardo, dico, si sa. Dimmi. Arriva un messaggio del mitico Lionello, lo voglio citare, lo saluto, grande Lionello Mancini, ex vice direttore qui a Radio 24, che mi manda questo messaggio che vorrei leggerti. L'amarezza, riguarda ovviamente la telefonata di prima di Elena, l'amarezza di Manera fa aggravare i pazienti, i medici la sconsigliano. Stavo dicendo al direttore Mancini che la mia è una cura omeopatica, con le dosi di amarezza, cioè, che servono a contrastare l'amarezza totale della degenza in ospedale, ecco. E tu dici, se non servono, male non fanno, esatto, è una va bene, andiamo a sentire la borsa, poi ci trasferiremo di pochi metri per la verità, perché noi, voglio dire, parrucchieri riaprono, abbiamo qua un parrucchiere vicino alla redazione, lo abbiamo chiamato, abbiamo detto, caro Sergio, dici un po' come va oggi il lunedì di ripartenza, ma prima la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao ragazzi, sono un volontario di un'associazione che porta in giro disabili e gli anziani ai loro centri diurni. Ogni sanificazione è una ditta che ci fa un buon prezzo, perché siamo una Onlus, 100 euro e noi non facciamo pagare nulla. Come viviamo? Ciao! Scusate, ma questa più che una suora mi sembra Cottarelli da come parla. È più manager, facciamo la ministra del tesoro, perché non doveva fare la suora, doveva fare il ministro del tesoro. Mi sembra molto preparata. Suora Anna Moni Alfieri ha 3 lauree, esperta di sistemi scolastici, è stata consulente di diversi ministeri dell'istruzione. Abbiamo finito, Carmelo? Possiamo? Allora, 10:37 minuti, siamo qui, caro Leonardo. Allora, sai che io sarei curioso di sapere se sono aumentati in questo periodo i costi delle sanificazioni, sapere quanto costavano in media prima e adesso sono grandi incrementi. Sarebbe una cosa da verificare. L'ascoltatore dice, noi la paghiamo 100 euro come Onlus, sì, però certo. C'è da dire che 300 euro ha chiesto questo di Airbnb. Il problema è che insomma, la Onlus si baserà anche su dei contributi, immagino, spero, di sì, donatori. Sì, vorrei sapere quanto pagavano prima, per esempio, ecco, qualora le avessero dovuto fare. Interessante, sì. Ma noi vorremmo sentire adesso un parrucchiere, un barbiere, c'è con noi Sergio oppure no? Sergio, buongiorno. Sì, c'è? Ci sono. Eccolo, Sergio ha un negozio e barbiere qua a 2 passi dalla nostra redazione, via Montebianco, e quindi insomma abbiamo detto, vogliamo sapere come va. Intanto lunedì chiusura dei barbieri oppure lunedì si apre adesso? Perché Allora, in teoria oggi dovevamo essere chiusi, ma visto dopo 2 mesi buoni che si è stati chiusi, e allora abbiamo detto, per anticipare un po' la situazione lavorativa, visto che la necessità che c'è, allora detto, abbiamo aperto anche oggi. Come va? Cioè, come si fa ad andare dal parrucchiere adesso? È tutto con prenotazioni? Tutto, cioè, io se busso... Diciamo, tutto su appuntamento. Tutto un cliente alla volta e via via. Per adesso. Poi quando torneremo alla normalità si cambierà di nuovo. Ecco, ma come si fa? Cioè la gente chiama e prenota e viene lì. Esatto, chiama, prenota. E poi viene lì a fare il servizio. Come, esatto. Come funziona la sanificazione? Ecco, visto che è il tema che ha lanciato il buon diciamo, sanificazione è stato tutto sanificato, ogni cliente viene tutto il posto di lavoro viene tutto disinfettato, tutto diciamo mantiglia, tutto usa e getta. Io lavoro con maschera P2, quella che protegge me e il cliente, in più ho anche la visiera per curarmi gli occhi. Diciamo tutto nella massima tutela mia e del cliente. Ragazzi, però è una roba incredibile. Cioè, hai sì, fatto diciamo un calcolo, Sergio, di quanto ti può costare a te un taglio? Cioè, nel senso, a te allora, hai fatto un calcolo. È rimasto uguale come prima, non è cambiato nulla, anche perché mi piacerebbe. Ma a te come costi per prendere le mascherine? Per ripartire in una situazione di emergenza in questo modo, probabilmente ho speso una bellezza di 400 euro per comprare tutto usa e getta. 400 euro. E invece tutto il negozio ogni quanto viene sanificato anche per intero il negozio? Sì. Ogni quanto? Va sanificato. Adesso viene sanificato, l'ho fatto giornalmente. Adesso vediamo un po' le nuove disposizioni che ci vengono emanate, perché qua ancora sinceramente non si capisce bene nulla. Non si capisce. Siamo un po' tutti messi allo sbaraglio, ecco. Noi Sì. La gente che chiama cos'è che chiede? Capelli, tinte, barbe? No, cos'è io diciamo che faccio soltanto capelli e barbe lunghe. In teoria, adesso no, di altro non faccio. Vabbè, Leonardo Manera, non so se lo sai, sì, non ha problemi di capelli, cioè voglio dire, lui sì. Leonardo Manera c'ha la boccia, come si suol dire, quindi a posto così con Leonardo. Va bene così. Però io vado dal barbiere a farmi rasare a zero. Allora venga a trovarmi così le offro un caffè al bar di mia figlia. Però, è giusto, perché a fianco c'è il caffè della figlia, quindi fanno tutto in famiglia. Esatto. Sì, io ho una curiosità okay. Che quando vado al barbiere a farmi rasare a zero, i prezzi variano dai 6 euro ai 18 euro. Lei quanto mi può fare? Guarda, lei venga qui e ne parliamo di persona. Sicuramente le posso fare anche di meno. Anche di me, stupendo, Sergio. Ciao, un grande abbraccio. Sergio D'Ugento, voglio ricordare, parrucchiere all'angolo via Montebianco e via, non lo so, da quelle via Tempesta, credo. Vabbè, insomma, lo trovate. Parrucchiere a Milano, i parrucchieri che riaprono. Ragazzi, certo che i parrucchieri, Leonardo, sono quelli che hanno maggiori difficoltà, perché tutto usa e getta, mascherina, sanificare. Come gli estetisti, d'altronde, un mezzo. Sì. Come fa uno a schiacciarti i punti neri se c'hai la mascherina? Guarda, io parlavo l'altro giorno con mio fratello, che è otorino laringoiatra, mi diceva: va bene le mascherine, ma se io devo guardare in gola a un paziente, come faccio? Come fai? Cioè, in quel caso, il paziente ovviamente non può tenere devi la prendere, cioè, la devi prendere no. delle bacchette di un metro. No, la tengo, ma è il paziente che deve togliere la mascherina, la terrà a quel punto come fanno molti sulla testa. Ma tu prendi la bacchetta di un metro e gli tiri giù la lingua da un metro, un telescopio di quelli non molto potenti e da un po' da distanza, vabbè dai, siamo al delirio. Andrei in provincia di Bolzano da Emanuele Bolzano, che è una delle prime città ad avere riaperto tutto. Emanuele, buongiorno. Sì, buongiorno. Come va? Noi qua tutto aperto. Anche oggi sono andato in un centro commerciale, tutto aperto. Sentivo i miei cugini grazie invece a Milano, tutto chiuso. Niente, grazie a voi. Prego Emanuele, e poi? No, io volevo parlare della scuola, perché fortunatamente da una parte io e la mia compagna abbiamo sempre lavorato, perché io lavoro alle poste e lavora per l'azienda ospedaliera. Ma effettivamente la scuola a distanza, dal mio punto di vista, soprattutto per i bambini fino a 12 anni, visto che non possono stare a casa da soli, è stato un po' un problemino. Perché ci deve essere sempre qualcuno e quindi era un po' difficile gestirsi. Inoltre, chiamiamolo problemino, cioè voi pensate che, lo chiedo proprio io, ho due figli di 14-11 anni, pensate che un ragazzino di 11 anni, 10 anni, se non ha l'opportunità, come dire, sul computer di, diciamo così, divagare dalla didattica a distanza, io per esempio come faccio? Sono qui, loro sono di là, sono in onda, come si pensa che un allievo non vada a fare altro sul computer? Ma poi soprattutto la mia grande, diciamo, la prima elementare, ok, aveva una app e poi aveva dei fogli, ma è chiaro che appena possono comunque divagano, perché anche il quindicenne, io immagino anche un quindicenne, se è bravo rimane lì, fa la videochiamata, quello che è. Ma se uno che divaga spegne la telecamera, cioè, certo, però effettivamente certo, è anche capibile in un momento con una situazione un po' particolare, insomma, sì, ho trovato questa situazione, diciamo che va bene così da una parte. Però, diciamo che dobbiamo cavarcela per quello che è, ma io penso che da settembre sarà la vera sfida, cioè se lo Stato non è in grado da qui a settembre di far ripartire la scuola in qualsiasi modo, ma farla ripartire, quello secondo me sarà il vero fallimento, perché non è pensabile a ragione Cacciari di sostituire la scuola con la didattica a distanza, non è pensabile. Leonardo, ti sottopongo tu parli questa... Parli di settembre, ma a settembre potrebbe esserci la seconda ondata. Guarda, in linea con questa tua previsione, è uscita un'agenzia Spero di no, mi auguro di no. Con le croci, quindi... Notizia importante. Importante. Titolo, a Genova obbligatorio uso delle mascherine sempre. Così, titolo, sempre, non so, vai. Cosa vuol dire? Cioè, sempre vuol dire anche a casa mia, quando sto facendo una pizza nel forno, no, devo tenere la mascherina. Poi sempre. Dopo, no, il sindaco, no, mi faceva ridere il titolo, l'ordinanza del sindaco, obbligatorio in tutte le aree al di fuori della proprietà privata, quindi a casa no, ma mi piaceva il titolo, a Genova obbligatorio uso mascherine, sempre, va gente che va a dormire con la mascherina anche. Sì. Vabbè, dai. Dopo ci accusano di essere dei lassisti e di essere dei complottari, tu un po' in parte già lo sei, e di essere coloro che dicono, che sminuiscono e che tutto liberi tu. Cosa che invece noi non diciamo. Se volevi lanciare la campagna l'altro giorno liberi tutti, poi hai detto ma forse non è un po' eccessiva. Non è vero, smetti. L'hai proposta, andiamo, sì. andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, su un Franco Battiato, dannata, convocherei Antonella dalla provincia di Brescia. Antonella, buongiorno. Pronto, buongiorno. Aspetti che tolgo il viva voce. Ale. Buongiorno, Alessandro. Io volevo solo riportare un mio parere per quanto riguardava l'intervento della suora, adesso non mi ricordo il nome. Sì. Io allora insegno da quasi 25 anni. La mia carriera l'ho cominciata in una scuola paritaria e poi sono entrata in ruolo in una scuola pubblica e lavoro lì ormai da più di 20 anni. Allora io volevo solo dire questo, che a settembre noi non potremo cominciare con la didattica in presenza, purtroppo, perché la didattica a distanza non è scuola, non potremo farlo nelle scuole pubbliche perché abbiamo troppi studenti dentro le aule, perché in tutti questi anni ci hanno caricato di un numero di studenti per classe elevatissimo rispetto a quello che possiamo richiedere agli studenti e possiamo seguirli. Però ci sono, 15, ci sono, 16, ci sono da, mi faccia da finire marzo. Per piacere, mi faccia finire. Allora, sì, noi per le strutture che abbiamo dal punto di vista dell'edilizia, che sono lì da vedere, è una scuola pubblica, sempre inadeguate, sempre inconsistenti, eccetera, ma soprattutto il numero degli studenti, io parlo della scuola superiore, ma anche nelle altre scuole, negli altri ordini non è diverso, è troppo alto, licei con 31 studenti. Allora, voi ditemi, se gli studenti un pochino in difficoltà, con 31 studenti per classe, cioè gli insegnanti miracoli sì, fanno. Ho quindi capito, noi abbiamo sempre, Antonella, ci non è questione, ma non è questione degli insegnanti, mi scusi, ma uno Stato da marzo, è scoppiata questa cosa, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, 6 mesi. Se uno Stato in 6 mesi non riesce a prendere coscienza di questo problema e organizzarsi, lo Stato è fallito. Fallito. Scusi, lei ci sta dicendo un problema che c'è, ci sono 6 mesi per risolverlo, 6 mesi. Siamo andati e tornati dalla Luna in meno di 6 mesi. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere atto che alziamo le mani e falliamo? Non so, Antonella, non è che sono voi, non siete voi insegnanti a dover risolvere la questione, è lo Stato che deve risolvere. Certo, ma lo Stato si è accorto adesso anche il cittadino di quanto vale la scuola. Adesso si è accorto col Covid-19, perché prima invece eravamo solo quelli che... cioè, lasciamo perdere. Comunque, in 20 anni gli investimenti nella scuola sono sempre stati meno. Ci hanno caricato sempre più di studenti per classe. Le famose classi pollaio non ci consentono di partire a settembre, purtroppo, ha capito? Generando ancora disuguaglianze, generando sempre più disuguaglianze tra chi è ricco e può permettersi, tra chi non lo è e non può permettersi. Vabbè, allora certifichiamo che la scuola non è importante. Non lo sta dicendo lei, insomma, è un'ammissione di come dire, uno Stato che, come scrive oggi Cacciari, dice, sì, evidentemente dice che la scuola non è centrale nell'agenda, no. E andiamo al fallimento delle future generazioni. Che fine ha fatto la proposta della ministra Azzolina di fare il doppio turno, per cui alcuni stavano a casa ed altri andavano? Ma dai, credo che non ci sia. Comunque, Antonella, la ringraziamo anche perché purtroppo, sottolineo per la terza volta, purtroppo è venuta a ritrovarci, credo, signor Garosio. Guardi, buongiorno, sono Gieppo Garosio. Garosio vuol dire fiducia. Lei l'altro giorno non mi ha interrotto. Allora, mi ha interrotto perché sono confusa. Garosio vuol dire confuso. Chi dice Garosio dice verità. Chi dice Garosio dice verità. Vabbè. Lei l'altro giorno mi ha interrotto, non mi ha lasciato esprimere i miei. Abbandono lo studio. Mandiamo l'inno del Partito Super Sovranista Italiano. Bravo Calderoni. Pissi anche tu. Questo è l'inno del Partito Super Sovranista Italiano. PSSI Pissi. L'unico partito che dice la verità. Perché Garosio vuol dire verità. Garosio, Geppo, vuol dire fiducia. Il sottoscritto Geppo. Esatto, Giampaolo Garosio ha detto Geppo. Allora, lei non deve smettere, lei non deve continuare a interrompermi. Che ha questo, io sono in silenzio, vizio, qui, non è potere che... forte, l'amico del potere forte, piegato, lei è piegato. Allora, io l'altro giorno stavo piegato. Chiaramente un po' mal io di l'altro schiena, giorno che... l'altro giorno io stavo dicendo, lei non mi ha lasciato terminare il mio concetto. Sì? Stavo che dicendo cosa? Chi è il vero responsabile del coronavirus, qual è? Attenzione. Ecco, ma lei l'avrei già terminato l'altro giorno il mio concetto, se lei non mi avesse interrotto. Ecco. No. Allora, ho detto che non è la rete 5G, ma sono i 5G, i 5G. Lei forse ecco, ricorderà i 5G. Occultiamo la verità, bravo, vada nel bar mentre si dicono le verità. Allora, ecco. Allora, di 5G, il primo è la Germania. Ho già spiegato perché noi ci stiamo affidando ai tedeschi che decidono sempre per tutti noi, gente che va in giro coi sandali e con le calze a bere birra. Attenzione italiani, noi abbiamo questa idea del tedesco che risolve i problemi, poi lo troviamo ubriaco all'Oktoberfest a bere della birra. Va bene, lasciamo stare. Seconda G come green economy, seconda responsabile del coronavirus. Per mesi ci hanno sfracellato i maroni con la plastica, che ogni volta che chiedevo una cannuccia per bere la Coca-Cola al bar mi guardavano come se fossi un narcotrafficante colombiano. E intanto che noi eravamo distratti a fare la raccolta differenziata, sì, che ancora adesso non ho capito dove devo mettere i cartoni nella pizza, i poteri occulti potevano agire indisturbati per creare questo virus. Quindi la green economy è stata creata per distogliere dai poteri occulti. Mettiamo tutti attenzione alla raccolta differenziata, e intanto gli altri facevano quello che volevano al servizio delle grandi case farmaceutiche. Green economy 2, 3 grandi sottogeneo G, grandi case farmaceutiche cioè, e non grandi. Solo esattamente, bravo, lei faccia ironia sulle grandi verità, lei che è piegato. No, mandiamo lì una pisci intanto il partito che dice le verità. Eccolo, e intanto io vado avanti a spiegare quali sono le altre G. Ancora mi vuole tagliare. Bravo, confermi sempre le sue caratteristiche. Vediamo. Allora, dopo le grandi case farmaceutiche, Bill Gates. Vediamo la quarta G, cognome che inizia con la G. Manca sull'ultima G, che corrisponde alla lobby più potente del mondo. Vediamo. Tenetevi forte, la lobby dei gattini. La lobby dei gattini, perché I poteri forti cosa fanno? I poteri forti usano le foto dei gattini come esche per attirarci online e quindi rubare i nostri dati. Il ma cosa c'entra con il coronavirus? Ma cosa c'entra? Senta Garosio, guarda, tira giù il microfono, guarda, tira giù, io non ne posso più di questo del PC, non ne posso più, non so voi. Manera, ma tu, Leonardo, ma tu ci sei. Bisogna smettere di continuamente distrarre. Tira giù! Mamma mia, ragazzi, lo cacci di casa, Leonardo, per favore, lo puoi mandare via, Garosio, lo fai uscire? Sì, di bene, Leonardo. Ecco, e allora, se volete continuare a essere schiavi. Senta, Garosio, guardi, però... la smetta. Provo un'ultima volta. Leonardo, un po' di polso, lo mandi via, Garosio. La centrifuga non sono un bene necessario, perché io l'ho sempre asciugato Carmelo, col panno. Giù il microfono, a domani. Siete dei lassisti e dei complottari!